Mi avete sentito dire che la mia opinione era di un grillo abbondantemente vicino al 20%, e così è avvenuto. Mi avete sentito dire, e qui forse non prevedevo meno del 50% la partecipazione, ma insomma dicevo, la gente resterà a casa e questo è solo l'inizio di quello che avverrà a livello nazionale. Dopodiché mi avete sentito dire, PD-UDC, che è il vero banco di prova a livello nazionale dell'alleanza Bersani-Vendola-Casini. Io mi auguravo e speravo che non funzionasse, non ha funzionato, ma per un soffio, a dire la verità, perché non c'è il governo nell'Assemblea regionale siciliana, ma in realtà l'ex sindaco Costuttiano di Gela, Camillo Crocetto, ha vinto da questo punto di vista, anche se ha vinto con la continuità rispetto al sistema lombardo, cioè quello di più grave spoliazione della storia siciliana. Certo, se ci si sposta a centrodestra, la famosa isola del 61-0, risultato di un tempo, no? Tutta la Sicilia che con i 61 collegi si volgeva in ginocchio a Berlusconi è diventata quella dell'azzeramento virtuale, reale, totale del PDL, della sua capacità di aggregare, di prendere voti, di sopravvivere. Berlusconi ha un bel dire sui suoi giornali: se davate retta a me, comici che avevo la soluzione, questo scaricabarile che serve, come avete visto sul giornale Libero, ci sono due posizioni diverse, c'è un Berlusconi che trae una lezione nazionale dicendo farò una lista con Bossi e Tremonti, che fossi nel stato maggiore del PDL mi metterei a ridere, con Bossi e Tremonti, Bossi cacciato dalla Lega, Tremonti uscito dal PDL, questa sarebbe la soluzione per Berlusconi come risposta alla Sicilia del posizionamento nazionale per prendere voti del suo PDL. E l'altro giornale invece dice ma no, appoggia Alfano, domani parte Mermalindi, che è una bella forbice di possibilità. Comunque certo, per il PDL il voto siciliano è un voto di una colata a picco, senza soluzioni per l'avvenire.